Before the next dialogue. Le parole e le espressioni nuove. Ascolti l'italiano, poi l'inglese, poi di nuovo l'italiano e ripeta. Cominciamo. Accidenti! Damn! Accidenti! Possibile. Possible. Possibile. Chiamo. I call. Chiamo. La polizia. The police. La polizia. Un momento. Just a minute. Un momento. Sul pavimento. On the floor. Sul pavimento. Proprio. Just. Right. Proprio. Take a moment now to listen to that new language again, and once you're confident with it, continue with the next dialogue.